Benvenuti a IAM, magazzino esistenziale. Ma si può dire anche IAM? Sì, certo. Qui troverete risposte ai vostri dubbi. Dubbi per mettere in crisi le vostre certezze. Certezze con dentro residui di dubbio. Può contenere tracce di arachidi, frutta a guscio, sesamo e soia. E luce. Soprattutto luce. Luce per le vostre notti buie. Ma che cos'è questa vita? Che cos'è? Lo chiedi a me, mentre io lo chiedo a te. Ma che cos'è la bellezza? Che cos'è? Non so perché questa sera so cos'è. Buonasera, io sono Valerio Groot e vi do il benvenuto nel nostro magazzino esistenziale, uno spazio di ricerca ed esplorazione, un laboratorio filosofico, un cammino nella domanda più antica, semplice e impossibile di sempre. Che cos'è la vita? Ma come mai ci poniamo questa domanda? Ce la poniamo perché abbiamo bisogno di sondare il mistero di noi stessi e del mondo, di trovare quei fili di luce che ci legano agli altri e alla natura, di vivere pienamente per sentire la vita batterci nelle vene. E allora partiamo con questa avventura attraverso poesie e canzoni, ma soprattutto ascoltando le parole dei nostri ospiti. In questo primo appuntamento ne avremo due, ma li scopriamo dopo la musica. Ad alcune persone che stimiamo, che nella propria esperienza ricercano l'essenza delle cose, di rispondere alla domanda che cos'è la vita. Ci hanno risposto attraverso un messaggio vocale. La prima risposta che ascoltiamo oggi è quella di Guidalberto Bormolini, sacerdote e monaco nella comunità dei ricostruttori nella preghiera, scrittore e tanatologo. Una vita spesa davvero a cercare, aiutare, ricostruire appunto. Tra le tante cose, al momento sta lavorando insieme alla comunità alla ricostruzione di un borgo abbandonato sulle colline di Prato che diventerà il borgo Tutto è Vita, un centro di spiritualità e di preparazione alla morte. Questo è un tema a lui molto caro e dovrebbe esserlo a tutti noi, visto che molti dei nostri problemi, a mio avviso, dipendono proprio dal fatto che non lo affrontiamo, che lo temiamo perché non lo conosciamo. Ho avuto la fortuna di visitare il monastero San Leonardo alla Villa del Palco di Prato, grazie a Massimiliano Bardotti, che sarà il nostro secondo ospite di stasera, che mi ha invitato lì a fare un reading e a tenere un laboratorio. E ho sentito in maniera lampante la pace e lo spirito della libera ricerca spirituale di quel luogo, della meditazione e della contemplazione. Ascoltiamo il contributo di Guido Alberto Bormolini. Che cos'è la vita? Non c'è domanda che sia contemporaneamente più facile e difficile da affrontare. È il grande enigma che ha attraversato sin dall'alba dei tempi la vicenda dell'umanità, una vicenda che ha migliaia, migliaia, decine di migliaia di anni alle spalle. Eppure la risposta può essere molto più vicina di quanto ci immaginiamo, perché abbiamo necessità di una non risposta per poter affrontare il quesito più importante dell'esistenza di un essere umano. È per questo che la risposta può essere soltanto mistica, nel senso letterale del termine, mysticos, misterioso, ma forse ancora prima, nuen, tacere, non dire. La risposta è al di là del pensiero logico e quindi è completamente comunicabile, ma non è spiegabile. Il mistero è qualcosa che si può vivere anche senza spiegarlo. Il mistero è la chiave della vita. È per quello che la risposta contemporaneamente è difficile e facile, perché è difficile spiegarlo a chi vuole solo ragionare, o forse è impossibile. Ma è possibile viverla questa esperienza, perché come diceva il buon Einstein, noi vediamo, sentiamo, parliamo, ma non sappiamo quale energia ci fa vedere, sentire, parlare, pensare. E quel che è peggio è che non ce ne importa nulla, eppure noi siamo quell'energia. E questa è l'apoteosi dell'ignoranza umana. Quindi la risposta è molto vicina, ma bisogna viverla, la vita, per capirla. Pensate al paradosso di un grande logico come Wittgenstein, che diceva sostanzialmente che il senso della vita, per tutti coloro a cui comunque era chiaro, non voleva dire che potevano poi dire quale fosse. Qui ci aiuta tanto un grande poeta mistico, Meister Eckhart, che se tu dovessi chiedere a un uomo vero, concreto, di fronte a te perché vive, ti risponderebbe semplicemente che non lo sa, ma sicuramente vive volentieri, senza perché. Infatti un suo allievo della sua scuola lo diceva con dei versi molto più capaci di esprimere la vita rispetto a un ragionamento, che la rosa è senza perché fiorisce a sé non bada, che tu la guardi non chiede. Ma per entrare nella vita bisogna trovare la porta, bisogna trovare il pertugio, la fessura, la feritoia, sì, forse è il termine più adatto, ma è una feritoia ferita d'amore. Tutti noi, se dobbiamo rappresentare il simbolo dell'amore, non è tanto il cuoricino tanto in voga adesso in questo banale modo di comunicare tra social, messaggini e cose che purtroppo forse non conosco neanche bene, ma è il cuore trafitto da una freccia. Il cuore senza freccia non è simbolo d'amore, è il cuore trafitto, aperto, non più chiuso. Lo troviamo in tutti i miti, in tutti i popoli, dalla Cina all'Estremo Oriente. È il cuore aperto. E non dimentichiamo, come dice il poeta Gibran, che la forza che difende il cuore dalle ferite è la stessa che gli impedisce di dilatarsi alla sua grandezza infinita. Il Sufi, la mistica islamica, parla di un cuore aperto, di un occhio del cuore, di una ferita che è quella che poi ti dà accesso alla vita. L'occhio del cuore, la fonte di immortalità, l'organo delle visioni divine, quello che ci permette di conoscere la vita, perché si conosce soltanto ciò che si ama. È anche il significato biblico della parola conoscere. La Vergine non conosceva uomo, cioè non si è unita d'amore fino all'identificazione. E allora, per capire cos'è la vita, ama, ma ama al massimo dell'amore. Come dice Eckhart, se ami una pietra, sei una pietra, perché diventi ciò che ami. se ami un essere umano, diventi un essere umano, ma se ami Dio, non oso dire di più, perché se vi dicessi che sei Dio, potreste lapidare. Io ringrazio di cuore Guido Alberto Bormolini per queste parole, per la luce che portano, per il cuore trafitto e aperto che ci ha fatto sentire così profondamente, in maniera così vera. Qui con me, e ve le presento solo ora, ci sono le persone, diciamo, i commessi del magazzino esistenziale, coloro grazie al quale il magazzino apre e potete visitarlo, come questa sera. Eleonora Negrisoli, responsabile di redazione. Ciao Eleonora. Ludovica Pasca, che tra poco e poi in ogni puntata ci farà ascoltare un brano live, e in realtà avete già sentito la sua voce nella sigla. Ciao ragazzi, ciao a chi ci ascolta. E Matteo Polonara in regia. Buonasera a tutti e a tutti. Come sta andando questa prima puntata di Yam Magazzino Esistenziale? Che ne dite? Dico che è arrivato un primo carico bello sostanzioso. Sì, è difficile parlare in realtà davanti a questa intensità. Sì, l'intervento di Bormolini ci stende, cioè è di una potenza, di una forza mistica che vuole il silenzio. Di far silenzio, sì. È che quasi le nostre parole risultano poi superflue in confronto alle sue, per cui non so. C'è un'intensità tale in quell'intervento, ovvero che ha a che fare... Come quando è inutile parlare di qualcosa di speciale come una musica che ti entra dentro, come la vista di un'alba, come il contatto con le cose vere, no? Che hanno più a che fare, proprio come dice lui, più col sentire che con il ragionamento. Sì, Sì, infatti viene voglia di attraversarle più che di parlarne. Io sento questa spinta. Allora speriamo che sia così anche per i nostri ascoltatori. E ce le facciamo vivere dentro, no? Sì. E... grazie, grazie davvero ancora a Guido Alberto Bormolini. Ludovica, questa sera cosa ci fai ascoltare? Vi faccio ascoltare Il canto del servo pastore di Fabrizio De André, una canzone meravigliosa. Bellissima, sì. Contenuta nell'album L'Indiano del 1981. Ed è proprio la storia di un uomo che vive senza neanche sapere quale sia il suo nome, senza un perché. È un po' come le rose di cui ha parlato Bormolini. E adesso ve la faccio ascoltare. Grazie, ti ascoltiamo. Dove fiorisce il rosmarino c'è una fontana scura, dove cammina il mio destino c'è un filo di paura. Qual è la direzione? Nessuno me lo imparò. Qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. Quando la luna perde la lana e il passero la strada, quando ogni angelo è alla catena ed ogni cane appaia, prendi la tua tristezza in mano e soffiala nel fiume. Vesti di foglie il tuo dolore e coprilo di più. Sopra ogni cisto, da qui al mare, c'è un po' dei miei capelli. Sopra ogni sughera il disegno di tutti i miei coltelli. L'amore delle case, l'amore bianco vestito, io non l'ho mai saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre un pagliaio, stanno sulla collina, i loro occhi senza fondo seguono la mia luna. Notte, notte, notte sola, sola come il mio fuoco, piega la testa sul mio cuore e spegnilo poco a poco. Grazie a te Ludovica, e mi piace tantissimo cominciare questa nostra trasmissione con De André, quindi sono proprio contento. Dunque, insieme a Guido Alberto Bormolini abbiamo chiesto al poeta Massimiliano Bardotti, vicino appunto a Bormolini e alla comunità dei ricostruttori, di risponderci a questa stessa domanda, che cos'è la vita, ma di farlo con i versi. E lui lo ha fatto leggendo una sua poesia tratta dal libro scritto con Gregorio Jacopini, Il colore dei ciliegi, da febbraio a maggio, edito da Fara Editore. Ascoltiamo Massimiliano Bardotti. Chiedi al giglio, alla ginestra, chiedi ai filari della vite, al tramonto chiedi, alla rugiada, alla polvere che danza nella luce, ai fili d'erba, chiedi alle lucciole, alle falene, al fiume che ha nel suo destino il mare, e nulla può il suo scorrere arrestare. Chiedi alle notti se è capitato mai che non venisse un giorno a dileguarle. Siamo arrivati alla conclusione di questo nostro primo appuntamento. Andremo in onda su Radio Ex Alge ogni ultimo giovedì del mese alle ore 21 per continuare ad esplorare l'invisibile, ad interrogarci, ad allenare il sentire per riprendere il contatto con l'essenza, con l'anima o come vogliate chiamarla. Io ringrazio Eleonora, Ludovica e Matteo. Ciao, ciao a tutti. Grazie a voi che ci avete seguito. Un saluto dal magazzino.